lasciati andare adesso, non te ne pentirai. Ti porterò in un viaggio unico dove potrai sentire il brivido di vivere un sogno. Sogna e sognerai spiagge caraibiche, la sabbia tra le mani, la voglia di sentirsi vivi più che mai, la voglia di sentire i nostri corpi che si uniscono e le stelle intermittenti attorno che condiscono l'atmosfera calda che ho creato per te, solo per te. Sai perché? Perché sono un tipo unico e non mi accontento mai. Io voglio darti il massimo e tu lo sai. E allora sciogliti, segui il ritmo che va, senti il tempo che batte nel petto e ti dà la carica per ballare tutta la notte, la forza di spingere, spingere, spingere forte. Senza fine, regalarti la passione di un amore unico, al sapore di salsa e di sale, farti volare, viaggiare, provare l'ebbrezza di una vita senza regole, dai, un'avventura da vivere stile Bonnie e Clyde. Scappiamo dal mondo, dimentica tutto, stasera saremo io e te di brutto, con la voglia di dominare il mondo almeno, stasera saremo io e te davvero. Passione e finché vivo, finché l'alba sorgerà e segnerà l'ultima pagina di questa favola. Ma non preoccuparti, perché se ti andrà, domani notte sarà l'occasione per riviverla. Ripeterla ogni volta sarà sempre più magica, ogni volta si andrà sempre più in là, sempre più su fino a toccare il cielo, sempre più su e insieme potremo unire le nostre vite, saremo un'unica linfa e pulseremo il battito del nostro cuore a tempo. Sento catalizzare la forza dentro me stesso e scoppia dentro me, lo sento saltare al ritmo di questa hit disco.